Undicesima traccia. Andarcene con un tempo orrendo per tornare con un tempo probabilmente peggiore. 4 cavalli e 4 servi tirati fuori solo per trasportare 5 esseri sfaccendati e tremanti in camere più fredde e peggior compagnia di quanto avrebbero avuto a casa propria. Emma non si sentì capace di dare il soddisfatto assenso che indubbiamente egli era abituato a ricevere, di emulare il proprio così amor mio, che doveva di solito essere somministrato da colei che lo accompagnava nei suoi viaggi, ma aveva abbastanza decisione per trattenersi dal dare risposta alcuna. Non poteva annuire, temeva di mettersi a discutere. Il suo eroismo non andava oltre il silenzio. Lo lasciò trascorrere e accomodò i vetri della carrozza e si ravvolse ben bene senza aprir bocca. Arrivarono, la carrozza voltò, fu calato il predellino e Mr. Elton, tutto ripicchiato, nero e sorridente, fu con loro in un attimo. Emma pensò con piacere a un mutamento di tema. Mr. Elton era tutto servizievole e gaio. Invero era così gaio nei suoi convenevoli che essa cominciò a pensare che egli dovesse aver avuto su Harriet notizie diverse da quelle che erano giunte a lei. Essa aveva mandato a informarsi mentre si vestiva per uscire e la risposta era stata: lo stesso, non meglio. Le informazioni che ho avuto da Mrs. Goddard, disse lei ora, non erano così buone quanto speravo. La risposta che ho ricevuto io è stata non meglio. La faccia di lui s'allungò immediatamente e la sua voce era piena di sentimento mentre rispondeva. Oh no, mi duole di aver trovato... Stavo per dirvi che quando mi sono informato alla porta di Mrs. Goddard che è l'ultima cosa che ho fatto prima di tornare a vestirmi, mi fu detto che Miss Smith non stava meglio, non stava affatto meglio. Anzi, stava piuttosto peggio. Molto afflitto e preoccupato, m'ero lusingato che potesse star meglio dopo il cordiale che sapevo le era stato somministrato la mattina. Emma sorrise e rispose: la mia visita è servita, spero, ad alleviare la parte nervosa della sua infermità, ma neppure io so l'incantesimo per far passare il mal di gola. È davvero un'infreddatura assai grave. Mr. Perry è stato da lei, come probabilmente sapete. Già, me l'immaginavo, cioè, non sapevo. Egli è avvezzo a curarla in simili indisposizioni e spero che la mattinata di domani porti a me e a voi notizie più confortanti. Ma è impossibile non sentire inquietudine. Che perdita per la nostra riunione d'oggi. Terribile, proprio così davvero. Sentiremo la mancanza di lei in ogni momento. Questo era molto appropriato. Il sospiro che l'accompagnò era davvero stimabile. Ma avrebbe dovuto durare di più. Emma rimase piuttosto sgomenta quando, solo dopo mezzo minuto, egli cominciò a parlare d'altro, e con una voce che denotava in sommo grado alacrità e godimento. «Che eccellente trovata!» disse egli. «L'uso del vello di pecora per le carrozze! Come le fanno comode! È impossibile sentir freddo con tali precauzioni! Davvero, le invenzioni moderne han reso una carrozza signorile perfettamente completa!» Uno è così protetto e difeso contro le intemperie che non un soffio d'aria può farsi strada senza averne il permesso. Il tempo finisce per non aver più nessuna importanza. È un pomeriggio freddissimo, ma in questa carrozza non ne sappiamo nulla. Ah, vedo che c'è un pochino di neve. Sicuro, disse John Knightley, e credo che ne avremo un bel po'. Tempo da Natale, osservò Mr. Elton, proprio di stagione, e ci possiamo proprio ritenere fortunati che non cominciasse ieri e non abbia impedito la riunione quest'oggi, cose che avrebbero potuto far benissimo, poiché Mr. Woodhouse si sarebbe difficilmente arrischiato fuori se ci fosse stata molta neve per terra. Ma adesso non ha nessuna importanza. Questa è davvero la stagione che ci vuole per il ritrovo d'amici. Per Natale ognuno invita presso di sé gli amici e la gente non si preoccupa neanche del tempo più cattivo. Una volta, in casa di un amico, rimasi bloccato dalla neve per una settimana. Nulla avrebbe potuto essere più piacevole. Ci andai solo per una notte e non potei ripartire che lo stesso giorno una settimana più tardi. Mr. John Knightley prese l'aria di chi non comprendesse tale piacere, ma disse solo, secco secco, «Non posso desiderare di essere bloccato dalla neve a Randalls». In altre circostanze, Emma avrebbe potuto trovare ciò divertente, ma adesso era troppo stupita del buon umore di Mr. Elton per aver posto per altri sentimenti. Pareva che Harriet gli fosse del tutto uscita di mente nell'aspettativa di una piacevole serata. «Si può star certi che ci sarà un bel fuoco», continuò lui, «e che in ogni cosa regnerà il più gran comporto. Persone incantevoli, Mr. e Mrs. Weston. Mrs. Weston, poi, è al di sopra d'ogni elogio, e lui ha proprio le virtù che s'apprezzano, così ospitale, così amante della società. Sarà una piccola riunione, ma quando le piccole riunioni sono scelte, sono forse le più piacevoli di tutte. Nella camera da pranzo di Mr. Weston non ci si sta comodi in più di 10, e per parte mia mi piacerebbe di più, in tali circostanze, che fossimo 2 di meno piuttosto che 2 di più. Credo che sarete d'accordo con me», volgendosi a Emma con aria tenera, «credo che certamente riscuoterò la vostra approvazione, sebbene forse Mr. Nardi, abituato com'è a grandi ritrovi a Londra, possa non condividere proprio il nostro sentimento». «Io non so niente delle grandi riunioni di Londra, signore. Io non pranzo mai con nessuno». «Davvero?» con tono di meraviglia e di compassione. «Non avrei creduto che la professione legale costituisse una schiavitù così grande. Ebbene, signore, verrà pure il tempo in cui sarete ripagato di tanti sacrifici, quando avrete da faticar poco e da divertirvi assai». «Il mio precipuo divertimento», rispose John Knightley mentre passavano per l'androne, «sarà di ritrovarmi a Hartfield sano e salvo». Un cambiamento d'espressione si rendeva necessario per ognuno dei due signori al loro entrare nel salotto di Mrs. Weston. Mr. Elton doveva moderare il suo aspetto allegro e Mr. John Knightley dissipare il suo malumore. Mr. Elton doveva sorridere meno e Mr. John Knightley di più per armonizzarsi con l'ambiente. Emma soltanto poteva essere come le suggeriva la natura e mostrarsi lieta quando si sentiva. Per lei trovarsi con Weston rappresentava un reale piacere. Mr. Elton le era molto simpatico e non c'era persona al mondo a cui lei parlasse tanto a cuore aperto come alla moglie di lui. Non c'era nessuno cui essa raccontasse con tanta convinzione di venire ascoltata e compresa, di riuscire sempre interessante e sempre intelligibile, i piccoli affari e provvedimenti, perplessità e piaceri di suo padre e di lei stessa. Non poteva dir nulla di Hartfield a cui Mrs. Weston non prendesse un vivo interesse. E mezz'ora di ininterrotta comunicazione di tutte quelle piccole faccende da cui dipende la felicità quotidiana della vita privata era una delle prime soddisfazioni di entrambe. Codesto era un piacere che forse la visita d'un'intera giornata avrebbe potuto non offrire, che certo non apparteneva alla mezz'ora presente, ma la sola vista di Mrs. Weston, il suo sorriso, il suo contatto, la sua voce erano graditi a Emma, ed essa decise di pensare il meno possibile alla stranezza di Mr. Elton o ad altre cose spiacevoli e di godere al massimo di quel che c'era da godere. Il contrattempo del raffreddore di Harriet era stato discusso ed esaurito prima dell'arrivo di Emma. Mr. Woodhouse era rimasto seduto con tutti i comodi abbastanza a lungo per farne la storia, e per fare anche tutta la storia della sua venuta e di Isabella, e di quella di Emma che sarebbe seguita, e aveva appunto finito di dire la propria soddisfazione che James venisse a far visita alla figlia, quando comparvero gli altri. E Mrs. Weston, che era stata quasi completamente assorbita dal porgergli attenzione, riuscì a distogliersi e a dare il benvenuto alla sua cara Emma. Il progetto di Emma di dimenticare per un po' Mr. Elton la fece rimanere piuttosto male a trovare, quando tutti ebbero preso i loro posti, che egli le sedeva accanto. Era molto difficile per lei levarsi di mente la strana insensibilità di Mr. Elton nei riguardi di Harriet, mentre egli le sedeva non solo gomito a gomito, ma non cessava di cacciarle sotto gli occhi la felice espressione del suo volto e di rivolgersi a lei pieno di premura a ogni occasione. Invece di dimenticarlo, il contegno di lui era tale che essa non poté evitare l'interno sospetto. Ma che sia davvero come immagina mio cognato? È possibile che costui cominci a trasferire il suo affetto da Harriet a me? Assurdo e intollerabile. Eppure, egli era così ansioso che lei si sentisse perfettamente calda. Prendeva tanto interesse al padre di lei. Era così incantato da Mr. Weston e alla fine cominciò ad ammirare i disegni di lei con tanto calore e con così poco discernimento che rassomigliava terribilmente a un innamorato potenziale e la costrinse a un non lieve sforzo per serbare le sue buone maniere. Non poteva essere sgarbata per via di se stessa e per via di Harriet, nella speranza che tutto potesse finire ancora bene. Essa fu perfino affabile, ma era uno sforzo, specialmente perché gli altri stavano parlando di qualcosa a cui essa particolarmente desiderava di porgere ascolto, proprio nel momento più insopportabile delle sciocchezze di Mr. Elton. Sentì abbastanza da accorgersi che Weston dava notizie di suo figlio. Udì le parole «mio figlio» e «Frank» e «mio figlio» ripetute parecchie volte, e da poche altre mezze sillabe ebbe assai l'impressione che annunciasse una prossima visita del figlio. Ma prima che essa potesse calmare Mr. Elton, l'argomento era stato sorpassato a tal punto che ogni domanda per ravvivarlo sarebbe stata goffa. Ora succedeva che, malgrado la risoluzione di Emma di non sposarsi mai, c'era qualcosa nel nome, nell'idea di Mr. Frank Churchill, che non cessava mai di interessarla. Aveva pensato spesso, specialmente da quando il padre di Frank si era sposato con Miss Taylor, che se lei doveva sposarsi, lui sarebbe stato la persona adatta per età, carattere e condizione. Per via di questa relazione tra le due famiglie, egli pareva proprio appartenerle. Essa non poteva fare a meno di supporre che questo era un matrimonio a cui doveva pensare ogni loro conoscenza. Che ci pensassero Mr. e Mrs. Weston ne era pienamente convinta. E sebbene essa non intendesse lasciarsi indurre da lui o da qualsiasi altro a rinunziare a una situazione che credeva più colma di benessere di qualunque altra con la quale avesse potuto cambiarla, tuttavia nutriva una gran curiosità di vederlo, una decisa intenzione di trovarlo piacevole, di andare a genio a lui fino a un certo punto, e provava una sorta di piacere all'idea di loro due accoppiati nell'immaginazione dei loro amici. Con tali sentimenti, le attenzioni di Mr. Elton erano terribilmente inopportune, ma essa ebbe la consolazione di apparire molto cortese, mentre si sentiva molto irritata, e di pensare che il resto della serata non sarebbe forse passato senza rimettere sul tappeto la stessa notizia, o la sua sostanza da parte del comunicativo Mr. Weston. E così avvenne, che, felicemente liberatasi di Mr. Elton, e sedutasi presso Mr. Weston a pranzo, egli approfittò del primo intervallo nei suoi doveri d'ospite, del primo momento lasciatogli dalla lombatina d'agnello per dirle: «Ci vorrebbero solo due persone di più per fare il numero giusto. Mi piacerebbe di veder qui altri due, la vostra graziosa piccola amica Miss Smith e mio figlio, e allora direi che saremo proprio al completo. Credo che non mi abbiate sentito raccontare agli altri in salotto che stiamo aspettando Frank. Ho avuto una lettera da lui stamattina, ed egli sarà da noi tra due settimane». Dalla risposta di Emma traspariva un appropriatissimo grado di piacere. Essa annuì pienamente alla sua asserzione che Mr. Frank Churchill e Miss Smith avrebbero resa completa la loro brigata. «Voleva venire da noi», continuò Mr. Weston, «fin dal settembre scorso. Ogni sua lettera mi è stata piena, ma non può disporre del suo tempo come vuole. Ha da contentare quelli che devono essere contentati e che, sia detto tra noi, talvolta si possono contentare solo a prezzo di molti sacrifici. Ma adesso non dubito che lo vedrò qui verso la seconda settimana di gennaio». «Che gran piacere sarà per voi! E Mrs. Weston desidera tanto di conoscerlo che deve essere quasi felice quanto voi». «Sì, lo sarebbe, se non temesse un'altra dilazione. Essa non confida nella sua venuta tanto quanto me, ma non conosce le persone come le conosco io. Si dà il caso, vedete, che questo sia detto tra noi, non ne ho fatto parola nell'altra stanza. Ci sono segreti in tutte le famiglie, sapete. Si dà il caso che una brigata d'amici è invitata a fare una visita a Enscombe in gennaio e che la venuta di Frank dipenda dal rinvio di quella visita. Se questa non è rinviata, egli non può muoversi, ma so che sarà rinviata, perché si tratta di una famiglia per la quale una certa signora influente di Enscombe nutre una speciale antipatia, e sebbene si ritenga necessario invitarli una volta ogni 2 o 3 anni, la visita è rimandata quando viene il momento. Non ho il minimo dubbio su quel che accadrà. Ho tanta fiducia di vedere qui Frank prima della metà di gennaio, quanta di essere qui io stesso. Ma la vostra buona amica laggiù, facendo un cenno col capo verso il posto di capotavola, ha così pochi ghiribizzi lei stessa, e ci è stata così poco avvezza a Harfield, che non può calcolare sui loro affetti, come è invece capitato per un pezzo di fare a me. «Mi dispiace che ci possa essere un'ombra di dubbio nella cosa», rispose Emma, «ma propendo a essere della vostra opinione, Mr. Weston. Se voi pensate che egli verrà, lo penserò anch'io, perché voi conoscete Enscombe. Sì, posso ben vantarmi di conoscerlo, benché in vita mia io non ci sia mai stato. È una donna strana quella, ma non mi lascio andare mai a dirne male per via di Frank, perché credo che essa gli voglia molto bene. Solevo crederla incapace di voler bene a chi che sia, eccetto che a se stessa, ma è stata sempre buona con lui, a modo suo, pur con capricetti e grilli, e aspettandosi di averle tutte vinte. E torna non poco a onore di lui, secondo me, che egli sia riuscito a provocare tale affetto, perché, sebbene non mi piacerebbe di dirlo ad alcun altro, essa non ha più cuore di una pietra per la gente in generale, e ha un carattere infernale». A Emma l'argomento piaceva talmente che lo abbordò con Mrs. Weston non appena si furono trasferiti nel salotto, augurandole che tutto andasse bene, ma osservando pure che sapeva che il primo incontro doveva metterla in una certa agitazione. Mrs. Weston annuì, ma aggiunse che sarebbe stata ben lieta di avere la certezza di sobbarcarsi all'ansia di un primo incontro alla data di cui si parlava. «Perché non posso contare sulla sua venuta, non so essere ottimista come Mr. Weston, ho paura sai che finisca in nulla. Mr. Weston, mi immagino, ti ha detto esattamente come stanno le cose». «Già, pare che non dipenda che dal malumore di Mrs. Churchill, che immagino sia la cosa più certa del mondo». «Oh, Emma», rispose Mrs. Weston sorridendo, «che certezza ci può essere nel capriccio? Poi, volgendosi a Isabella, che prima non era stata ad ascoltare, «Dovete sapere, cara Mrs. Knightley, che non siamo affatto sicuri, a mia opinione, di vedere Mr. Frank Churchill come pensa suo padre. Dipende interamente dallo stato d'animo e dal piacere di sua zia, in una parola dal suo umore. A voi, alle mie due figliole, posso rischiare a dir la verità. Mrs. Churchill comanda Enscombe ed è una donna d'umore assai strambo, e la venuta di Mr. Frank Churchill ora dipende da lei, se può fare a meno di lui. Oh, Mrs. Churchill, tutti conoscono Mrs. Churchill, rispose Isabella. E proprio io non penso mai a quel povero giovane senza la più gran compassione. Vivere continuamente con una persona di cattivo carattere deve essere terribile. È una cosa di cui, per fortuna, noi non abbiamo alcuna esperienza. Ma deve essere una vita di pena. Fortuna che non ha mai avuto bambini. Povere creature, come le avrebbe rese infelici. A Emma sarebbe piaciuto di restar sola con Mrs. Weston. Allora ne avrebbe saputo di più. Mrs. Weston avrebbe parlato a lei con un grado di franchezza a cui non si sarebbe arrischiata con Isabella, e credeva davvero che non avrebbe cercato di nascondere a lei nulla che riguardasse Churchill, eccetto quelle opinioni circa il giovanotto di cui la sua fantasia già le aveva dato tale conoscenza istintiva. Ma per il momento non c'era altro da dire. Mr. Woodhouse le seguì poco dopo nel salotto. Star seduto a lungo a tavola dopo pranzo era una costrizione che egli non poteva tollerare. Né il vino né la conversazione gli dicevano nulla, e fu lieto di andare a raggiungere coloro con cui si trovava sempre a suo agio. Però, mentre egli parlava a Isabella, Emma trovò modo di dire: «Sicché voi non ritenete affatto sicura questa visita del vostro figliastro. Mi spiace. Il momento in cui vi trovate faccia a faccia per la prima volta deve essere sgradevole, e più presto sarà superato, meglio sarà. Sì, e ogni rinvio ne fa temere altri. Anche se questa famiglia, i Braithwaite, stavolta non andrà, ho ancora paura che possa venir trovata qualche scusa per deluderci. Non posso tollerare di immaginare riluttanza da parte di lui, ma son certa che i Churchill desiderano molto tenerselo per sé. C'è gelosia. Son gelosi persino della considerazione che egli ha per il padre. Insomma, non conto affatto sulla sua venuta e vorrei che Mr. Weston fosse meno ottimista. Dovrebbe venire, disse Emma. Se dovesse solo restare un paio di giorni, dovrebbe venire. E si può immaginare a stento che un giovanotto non abbia neanche la facoltà di far questo. Una ragazza, se capita in cattive mani, può essere contrariata e tenuta lontano da coloro coi quali desidera di stare. Ma non si può capire che un giovanotto subisca tale restrizione da non essere capace di passare una settimana col padre se gli piace. Bisognerebbe essere a Enscombe e conoscere le abitudini della famiglia prima di decidere che cosa egli possa fare, rispose Mrs. Weston. Si dovrebbe forse usare la stessa cautela nel giudicare della condotta di qualsiasi individuo in qualunque famiglia. Ma Enscombe, io credo, certo non deve essere giudicato secondo criteri generali. Quella là è così irragionevole e ogni cosa si piega al suo volere. Ma è così affezionata al nipote. È tanto il suo beniamino? Ora, secondo l'idea che mi faccio di Mrs. Churchill, sarebbe naturalissimo che mentre essa non fa alcun sacrificio per il benessere del marito, a cui deve tutto, mentre nei riguardi di lui si abbandona a continui capricci, dovesse poi spesso lasciarsi governare dal nipote, a cui non deve nulla. Emma cara, non presumere col tuo carattere angelico di capirne uno cattivo o di fissarne le leggi, devi lasciarlo andare per la sua strada. Non dubito affatto che egli non abbia talvolta considerevole influenza, ma può riuscirgli perfettamente impossibile sapere in anticipo quando sarà. Emma ascoltò, poi disse calma calma: non sarò contenta se non vieni. Può avere un bel po' di influenza in certi casi, continuò Mrs. Weston, e pochissima in altri. E tra questi ultimi, in cui essa è irremovibile, è molto probabile che sia proprio questa circostanza di lasciarli per venire a far visita a noi. Mr. Woodhouse fu presto pronto per il suo tè e quando ebbe bevuto il suo tè si sentì pronto per tornare a casa. E tutto quello che poterono fare le sue tre compagne fu di cercare di distrarlo dall'idea che era tardi, fino alla comparsa degli altri signori. Mr. Weston era loquace e gioviale e non disposto a lasciar partire presto gli amici, ma alla fine la compagnia in salotto ricevette un accrescimento. Mr. Elton, d'umore eccellente, fu tra i primi a entrare. Mrs. Weston e Emma sedevano insieme su un sofà e gli s'unì a loro immediatamente, senza essere neanche invitato, si sedette fra loro due. Emma, che era pure di buon umore per lo spasso offerto alla sua mente dall'intesa di Mr. Frank Churchill, era disposta a dimenticare le recenti scorrettezze di Mr. Elton e a essere soddisfatta di lui come prima. E allorché egli fece di Harriet il suo primo tema, era pronta ad ascoltare coi più amichevoli sorrisi. Egli si professò estremamente preoccupato intorno alla bella amicizia di Emma, la sua bella, leggiadra, amabile amica. Aveva notizie? Aveva sentito nulla intorno a lei da quando erano a Randalls? Egli provava molta ansia, doveva confessare che la natura della sua infermità l'allarmava parecchio. E in questo stile egli seguitò a parlare per un po' molto appropriatamente, senza badare molto alle risposte, ma in complesso abbastanza compreso del pericolo d'un brutto mal di gola. Ed Emma era piena di benevolenza verso di lui. Ma alla fine la cosa parve prendere una brutta piega. Sembrò tutta a un tratto come se egli avesse più paura che fosse un brutto mal di gola per via di lei che per via di Elliot, più ansioso che essa evitasse l'infezione che ansioso che la malattia non fosse di natura infettiva. Cominciò con gran calore a supplicarla di astenersi dal visitare di nuovo la camera della malata per il momento, a supplicarla di promettere a lui di non esporsi a tal rischio finché egli non avesse veduto Mr. Perry e sentito che cosa ne pensasse lui. E benché essa cercasse di prendere la cosa ridendo e di rimettere il tema sulla buona strada, non c'era verso di porre fine alla sua estrema premura per lei. Emma era seccata. Sembrava proprio, non c'era da nasconderselo, come se egli pretendesse d'essere innamorato di lei invece che di Harriet. Un'incostanza, se fosse stata vera, quanto mai spregevole e detestabile. Ed essa trovava difficile non perdere la pazienza. Non gli avrebbe dato manforte? Non avrebbe aggiunto le sue persuasioni a quelle di lui per indurre Miss Woodhouse a non recarsi da Mrs. Cotter finché non fosse certo che l'infermità di Miss Smith non era infettiva? Non sarebbe rimasto contento senza una promessa? Non avrebbe lei esercitato la sua influenza per procurargliela? Così scrupolosa per gli altri, continuò, eppure così non curante per se stessa. Voleva che io mi riguardassi per il mio raffreddore restando oggi a casa, eppure non vuol promettere di evitare il pericolo di prendersi lei stessa un mal di gola ulceroso.